Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Mai così male dal 1990. Sono i dati delle vendite al dettaglio nel 2013. Gli italiani continuano a tagliare su tutto. Cresce, questo è il dato più preoccupante, la flessione anche per i prodotti alimentari. E c'è chi lancia l'allarme sui rischi legati al consumo di cibo low cost. Cibo giusto, sano e trasparente, quello che chiede invece un'importante iniziativa destinata alle mense scolastiche. Attraverso una mostra esploreremo invece i confini scientifici ed emotivi del gusto. Il focus sui trend è dedicato al turismo per passione, nuove tipologie, nuove mete e nuovi strumenti di viaggio. Nuovo appuntamento infine con il nostro Italian Factor. Oggi parliamo di Made in Italy e motivazione alla ricerca di nuove alleanze strategiche tra imprenditori e creativi. La borsa della spesa. Ora fatemi capire bene. La cena la facciamo per Giacomino, giusto? Sì. Quindi paga lui. No, ognuno mette il suo, braccino corto. Vabbè, io la mia parte l'ho già messa. Messo cosa? Le 500 lire nel carrello. Vabbè, ma poi te le riprendi. Tanto ho lì un capitale immobilizzato e gli interessi si impennano. Interessi cosa? Lascia perdere, cosa ne sai tu di economia, Giacomo, dai. Ma è scemo. È andato. Non conosce limiti la spending review delle famiglie italiane. Dopo aver eliminato il superfluo, ora tocca anche i beni di prima necessità. Lo dicono i dati Istat sulle vendite al dettaglio, che testimoniano un vero e proprio crollo nel 2013, meno 2,1%, mai così forte, pensate, negli ultimi 24 anni. Gli italiani tagliano su tutto, a fare la differenza però nell'ultimo anno sono i consumi alimentari, meno 1,1% per i prodotti della tavola. Sono in flessione supermercati e ipermercati, male anche i piccoli negozi di vicinato. A salvarsi sono solo i discount, gli unici con il segno più nelle vendite. La sociologa dei consumi è Maura Franchi. Direi che sull'alimentare la sofferenza delle famiglie è più acuta per diverse ragioni. La prima perché c'è un vincolo di tempo che le persone hanno, per cui non si possono fare banalmente prediche sul vantaggio di comprare prodotti freschi per poi cucinarli, quando in realtà tutte le persone lavorano e sopportano molte fatiche di tempo, di trasporti, eccetera. Per cui, come dire, il tema dell'alimentare è un tema delicato, perché è un tema su cui le persone sentono particolarmente le contraddizioni. Quindi il primo è il vincolo del tempo. Il secondo è il vincolo e l'esigenza della qualità, perché ormai le persone associano a una buona alimentazione, quindi a una buona qualità dell'alimentazione, la propria salute e il proprio benessere, per cui dover rinunciare ai prodotti migliori per accontentarsi di prodotti, come dire, di gamma più bassa è certo un grande disagio. Il consumatore cerca sicuramente di evitare forme di spreco, e con questo credo che non sarà più come prima, anche il dopo crisi, quando mai ci sarà, se ci sarà. Un libro di economia recente intitola 7 anni di vacche sobrie, per dire che non ci aspettiamo appunto che dalla crisi si esca con un'esplosione, una nuova esplosione forte paragonabile a quelle degli anni 60 di consumi. Quindi insomma ci stiamo un po' abituando alla sobrietà, e questo non è nemmeno male. Ecco, quello che invece è male è che si debba rinunciare a livelli di qualità su beni essenziali come l'alimentare, o anche su altri beni essenziali come l'istruzione, la cultura. Una cosa che vorrei dire è che oggi non si rinuncia alla tecnologia. Questo è un punto interessante, perché apparentemente la tecnologia non sono un bene primario, però non si rinuncia, perché la tecnologia ha assunto in questo momento un significato simbolico come bene di inclusione sociale. Proprio sulla qualità la Coldiretti lancia l'allarme, ha analizzato i rischi del cibo low cost. Nel 2013 in Italia gli allarmi alimentari sono aumentati del 14%, con ben 534 notifiche sulla sicurezza di cibi e bevande potenzialmente dannosi per la salute. Una sensibilità, quella per un cibo sano, sostenibile, a basso impatto ambientale e a spreco zero, che deve essere coltivata anche nelle mense scolastiche, dove mangia ogni giorno il 50% dei bambini con meno di 14 anni. Per questo motivo ActionAid ha lanciato l'iniziativa Io Mangio Giusto. Il segretario generale Marco De Ponte. In Italia si consumano circa 380 milioni di pasti all'anno nelle mense scolastiche, 2 milioni al giorno. Ogni bambino nella sua vita scolastica più o meno mangia 2000 pasti a scuola. Questa attività vale circa 1,5 miliardi di euro all'anno, quindi è significativa. Orientare la domanda del cibo che si distribuisce nelle mense scolastiche ha un potenziale trasformativo enorme, perché si orienta il consumo, orientando il consumo si orienta anche la produzione, cioè come si produce questo cibo, da dove viene, come si distribuisce e via di seguito. Una mensa a 10 lode, secondo voi come deve essere, quali parametri fondamentali deve rispettare? Dovrebbe essere un luogo di partecipazione. Ricordo che in Italia esistono, almeno sulla carta, dei luoghi deputati, esistono le cosiddette commissioni mensa, in cui banalmente, come dire, i genitori e soprattutto i bambini hanno la possibilità di assaggiare, modificare quello che viene loro proposto e di articolare, diciamo, appunto una diversa domanda di quello che sta sui loro piatti. Deve essere una mensa trasparente, perché si tratta in gran parte di, chiamiamoli, semplificandoli, appalti, convenzioni pubbliche negoziate dalle nostre istituzioni locali, in realtà con un numero non enorme di soggetti. Circa il 50% del cibo che arriva in mensa è prodotto, distribuito da una quindicina di aziende. Una mensa ideale non dovrebbe sprecare. Purtroppo sappiamo che sono circa 87.000 tonnellate il cibo che viene distribuito e poi non utilizzato. Si può pianificare meglio. E poi dovrebbe essere una mensa nella quale si serve un cibo sostenibile, dove sostenibile vuol dire che se gli appalti sono negoziati adeguatamente, queste aziende rispetteranno i diritti dei lavoratori, lo possono fare con una filiera corta che valorizzi il lavoro e le imprese del territorio, e poi una mensa nella quale il prezzo sia giusto. Il prezzo di un pasto a scuola costa più o meno 4,5 euro adesso. Solo un terzo di questo prezzo è, diciamo, il costo del cibo, il resto sono i trasporti, diciamo, i costi energetici legati alla distribuzione. Questo prezzo si può quindi abbassare se si migliorano queste altre componenti, oppure, diciamo così, può rimanere anche stabile invece scegliendo del cibo di maggior qualità se si fa attenzione appunto alle altre componenti. Quindi, insomma, la mensa giusta è un laboratorio di cittadinanza, noi diciamo. Quindi noi nei prossimi mesi faremo un lavoro piuttosto articolato di ricerca popolare, diciamo, andando a chiedere appunto a genitori, insegnanti, bambini stessi che vorranno segnalarceli tutto quello che vedono, ho detto in parole semplici. E poi ovviamente noi abbiamo prodotto anche dei materiali più strettamente educativi, abbiamo un kit che si chiama Io Mangio Tutto, che viene utilizzato già in molte scuole, ma che nei prossimi mesi contiamo di portare in altre centinaia di scuole. Insomma, le forme di attivazione sono tante, chi è curioso cerchi sul nostro sito web www.actionaid.it. Sempre a proposito di cibo, c'è tempo fino al 12 marzo per visitare alla Triennale di Milano la mostra Gola, Arte e Scienza del Gusto, che esplora i confini emotivi, sensoriali, cerebrali, scientifici e artistici del gusto e dei sapori, per tracciare il cammino che ha plasmato le nostre preferenze a tavola. Il curatore Giovanni Carrada al microfono di Adriana Fracchia. Avere una maggiore consapevolezza del gusto, di che cos'è e di come funziona, serve ovviamente, come per tutti i piaceri, a rendere questo piacere più profondo, più appagante, più gratificante, ma d'altra parte insieme a difenderci dal tentativo di parte dell'industria alimentare di usare certe nostre preferenze per farci mangiare dei cibi che ci possono far male. Oggi mangiamo troppo e nel gusto, come in tanti altri piaceri, la qualità non va a braccetto con la quantità. Conoscere il gusto, che cos'è? come funziona e come conoscere l'arte. Ci permette poi di ottenere una soddisfazione migliore, più raffinata, più profonda quando siamo a tavola. Dall'altra parte però ci aiuta anche a difenderci da tutti i cibi che ci fanno male. In questi anni ci è stato sempre detto che dobbiamo fare dei sacrifici a tavola per avere una vita più sana. Il messaggio di questa mostra, della scienza che ha indagato il gusto e il piacere della tavola, ci dice invece il contrario. Noi dobbiamo trovare una strada che ci consenta di trovare il piacere e coniugarlo con la salute. Non possiamo trovare la salute a tavola negandoci il piacere del cibo, perché il nostro cervello non ce lo permetterebbe. Il piacere della tavola è un raffinatissimo strumento della natura che è sempre servita per farci scegliere che cosa mangiare e che cosa non mangiare, in modo tale che il cibo fosse sicuro e contenesse tutti i nutrienti e tutta l'energia che ci serve. Per questo abbiamo dei meccanismi innati, quindi una preferenza istintiva per tutto ciò che è grasso, che è dolce, che è salato, perché nel nostro passato i cibi grassi, salati, dolci erano molto rari e molto preziosi perché avevano energia o sodio, per esempio. Il gusto è stata una delle grandi armi di Homo sapiens per stabilirsi in qualsiasi angolo della terra, perché ovunque siamo riusciti a trovare qualcosa da mangiare e a evitare tutto quello che ci può far male. Vi ricordo le regole di questa prova. Avete scelto 3 tessuti, dovete realizzare un look per una donna metropolitana che rappresenti la vostra personalità. Avete fino alla mezzanotte e qualche ora in più domani per fare questo outfit. Mi raccomando. Lo avete sentito, abbiamo cambiato argomento, parliamo di moda perché è partita su Fox Life la prima edizione di Project Runway Italia, il talent show dedicato agli stilisti emergenti, l'occasione per noi per parlare di Made in Italy con uno dei giurati, Tommaso Trussardi, sentiamolo al microfono di Marta Cagnola. Io non parlerei più di Made in Italy, io parlerei di Italian style, di stile italiano, perché la moda prima di tutto, cioè l'Italia prima di tutto è stile di vita. Basti pensare che il mondo, la Cina, la Russia, l'India, l'America, hanno sposato il modo di vivere italiano, non solo nella moda ma anche nel food, nell'arte e via dicendo. Quindi qua si tratta di, come per utilizzare un termine cool, deliverare, di come si dice, distribuire quello che è lo stile di vita italiano, quindi i futuri creativi italiani. Essere e avere. Sei uno che va sui trampoli. Sui trampoli? Sei un trampoliere. È così che si chiamano quelli che viaggiano a piedi. Figliolo, da quant'è che sei quassù? Da un paio di settimane. E prima di allora? Sono andato nel Sud Dakota, ho lavorato per un certo Wayne. Che te ne pare di tutto questo? Mi piace tutto questo. Poi ho disceso il fiume Colorado, giù per il Grand Canyon. Ho fatto le rapide. La N lì per cosa sta? Nord. La tua grande avventura in Alaska. Possano i viaggiatori trovare la felicità ovunque vadano e senza sforzo possano realizzare ciò che si sono prefissi. Nel paese in cui sto viaggiando, il Tibet, credono che percorrere a piedi lunghe distanze verso i luoghi sacri purifichi le cattive azioni commesse. Credono che più il viaggio è difficile, più la purificazione è profonda. L'anno scorso ho passato 322 giorni in viaggio. Ho volato per 350.000 miglia. La Luna ne vista 250.000. Le cose che tutti odiano del viaggiare per me sono confortanti reminiscenze che sono a casa. Bentornato, signor Bingham. Focus sui trend. È il viaggio il tema del focus sui trend di questa settimana. Parliamo di una vera e propria nuova antropologia del viaggio, nuove mete, nuove motivazioni, nuovi strumenti molto più personalizzati, costruiti su misura per il viaggiatore, tanto che oggi si parla sempre di più di un turismo delle passioni. Ne parliamo come sempre con i ricercatori di Future Concept Lab, Carlo Ricciardi, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Come sta cambiando il modo di viaggiare? Ma cambia nel senso che le persone sono mosse da scelte altamente personali, quelle scelte che si riflettono anche nel mondo dei viaggi e che danno vita al turismo delle passioni. Alle vacanze tradizionali si vanno ad aggiungere così quei soggiorni anche brevi improntati alla pura soddisfazione del piacere personale. Si è sviluppato un fenomeno di tribù turistiche dove la passione esiste e viene rafforzata dalla condivisione dei riti comuni, dei linguaggi e delle regole. Un recente studio di JFC di Faenza ha individuato in Italia 363 tribù e 724 passioni che sono in grado di generare un flusso turistico che coinvolge 13 milioni di persone. Un tipo di turismo che ormai si manifesta in periodi dell'anno diversi da quelli convenzionali come agosto, le festività, i ponti e nel 90% dei casi all'interno dei confini nazionali. Si viaggia più con compagni di tribù, lasciando a casa i familiari. Le principali passioni che muovono queste persone sono classicamente lo sport, per assistere a competizioni o per praticarlo, la musica con concerti e festival, la religione con pellegrinaggi, visite ai luoghi sacri, la natura e la gastronomia. Però sono più specifiche e curiose alcune passioni come quelle per i comics e i manga, per il paranormale con case infestate da fantasmi e luoghi esoterici, per non parlare poi di appassionati di fuochi d'artificio che si autodefiniscono pirovaghi o di attività un po' più adrenaliniche come il volo dell'angelo sulle Dolomiti Lucane o ludiche come la Carton Rapid Race a Cesana in Val di Susa. Non è rimasto indifferente a questo cambiamento tutto il mondo digitale, parliamo di un vero e proprio universo di app per il viaggio, questo settore è molto in fermento. Sì, molto fermento, si presenta con una miriade di app da aggiungere allo spazzolino da denti e al pigiama prima di partire. E allora troviamo app come Flight Radar 24 che trasformano lo smartphone in un vero e proprio radar in grado di mostrare in tempo reale sia la posizione dell'aereo e di conoscerne i dati dalla compagnia aerea, il numero di volo, dall'orario d'arrivo, la velocità, l'altitudine. Oppure possiamo aggiungere Flightboard che aggrega i dati di arrivi e partenze di 3.000 aeroporti, 1.400 compagnie aeree nel mondo. Gli orari, che vengono aggiornati ogni 5 minuti, sono presentati con lo stesso layout del tabellone del Charles de Gaulle di Parigi. Ci sono veri e propri addicted di queste app, ce ne sono altre utili proprio per la quotidianità del viaggio, citiamone altre. Sì, citiamone per esempio una curiosa che si chiama Sit or Squat, che permette di localizzare il bagno pubblico più vicino al luogo in cui ti trovi. Gli utenti possono tra l'altro aggiungere nuovi bagni, foto o commenti. Per ritrovare il bagaglio smarrito possiamo ricorrere a Tile, piccolo trasmettitore Bluetooth che quando associato ad un oggetto, la valigia nel nostro caso, consente di localizzarlo con il telefonino in un raggio di 40 metri. Tile è stato un grosso successo commerciale, sold out fino a marzo se non sbaglio, vero Carlo? Esatto, si può prenotare per circa $20 ma la consegna sta slittando già verso l'estate del 2014. Segno che insomma il bagaglio smarrito è un problema sentito per i viaggiatori. Sì, un problema molto sentito e un problema analizzato anche dalle compagnie aeree. La IATA ha calcolato che ogni anno le compagnie aeree utilizzano circa 3 miliardi di etichette adesive per contrassegnare i bagagli e per ridurne il numero la British Airways ha cominciato la sperimentazione dell'etichetta elettronica. Tramite l'app della compagnia il passeggero può effettuare il check-in e trasferire i dati all'etichetta che visualizzerà codice a barre, destinazione e identificativo del passeggero. Al viaggio successivo basterà semplicemente riprogrammarla. Per creare le guide di viaggio personalizzate, secondo i propri interessi, si può segnalare l'app di Minube, mentre per organizzare prenotazioni di voli hotel in un itinerario dettagliato, sicuramente TripIt Travel Organizer è l'app più utilizzata. A fronte di tutta questa digitalizzazione fanno molto tendenza oggi le mete che propongono una vera e propria digital detox. Sì, perché sostanzialmente rinunciare all'abitudine all'iperconnessione si rivela sempre più spesso la vera alternativa alla routine digitale. Chi volesse sperimentarla può rifugiarsi ad esempio presso il Fainan Eco Lodge nella biosfera di Dana in Giordania, dove non c'è scampo, è impossibile accedere a internet anche da smartphone. Non c'è scampo e non c'è campo. Italian Factory. questo è il momento della nostra riflessione finale sul Made in Italy, accompagnati dalla visione strategica del sociologo Francesco Morace. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Maria Luisa e a tutti gli ascoltatori. Prosegue il nostro manifesto a puntate per la valorizzazione dell'eccellenza italiana. Siamo passati agli elementi di attivazione dell'Italian Factor. Quali quello di oggi? Quello di oggi è fondamentale, è la motivazione. Di questo, come spesso avviene purtroppo, ci parla un sociologo americano e parla addirittura di Italian Way in un suo libro molto importante che è stato anche molto letto e studiato negli ultimi anni, che si chiama L'uomo artigiano. Richard Sennett dice: in Italia la vera motivazione arriva da una visione artigianale del mondo, dove l'artigiano realizza qualcosa non perché c'è un cliente che la compra, ma perché quella è la sua sfida vitale, è la sua profonda motivazione. Ecco, dovremmo, io credo, tutti noi nelle imprese, nelle botteghe, nelle aziende, recuperare questo elemento di motivazione. Quali sono i nomi, gli esempi da citare? Ma abbiamo ad esempio negli anni d'oro del design italiano, negli anni 60, dei curiosi tandem che si sono venuti a creare proprio sull'onda della motivazione. Primo fra tutti Adriano Olivetti, che spesso ritorna in questi nostri incontri, con ad esempio Ettore Sozza, con tanti altri designer, architetti, intellettuali. Dei tandem tra gli imprenditori e i creativi. No, il design italiano è stato fatto, non so, dagli Alessi con Castiglioni o con anche imprenditori che hanno lavorato con designer stranieri, ad esempio, quindi Philip Stark con magari Luti di Cartel o ancora De Padova Magistretti, che è un vero e proprio sodalizio. È molto importante recuperare questa capacità della visione imprenditoriale che sapeva lasciare spazio alla creatività e ai designer. Perché queste sinergie, questi tandem si ritrovano sì nel presente ma non in maniera significativa, in quantità significativa come nel passato? Che cosa manca? Manca la capacità di dialogo, di relazione tra mondi diversi. Purtroppo negli ultimi decenni ci siamo un po' tutti omologati in questa visione soprattutto finanziaria, economica, di un marketing anche che ci è stato anche imposto oltre che insegnato dal mondo anglosassone, e abbiamo un po' perso le nostre specificità, che erano il dialogo all'impronta, la capacità di improvvisazione in cui la creatività e la visione imprenditoriale potevano in qualche modo convergere. Grazie a Francesco Morace e grazie a Fabio Cantadori in regia. Trovate tutti i contributi aggiuntivi sulla pagina Facebook di Essere e Avere, sul sito di Radio 24 sezione programmi potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate, in attesa di risentirci come sempre sabato prossimo alle 16:30. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.